Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 € al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info. Questa è tutta scena teatro su Radio Onda Rossa. Il martedì alle ore 14. Trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali. I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Estratti dello spettacolo Liberi Sempre, letture della storica Michela Ponzani e dello scrittore Valerio De Filippis, musiche di Marco Caparrelli, chitarra e voce, Marcello Lardo, chitarra e basso, Nicolò Pagani, basso, Andrea Borrelli, batteria. Fai la ninna, fai la nanna, che se dormi non vedrai tante infame e tanti guai che succedono nel mondo. Tra le spade e i fucili dei popoli civili. Fa la ninna, cocco bello, che non vedrai la gente che si scanna per un matto che comanna, che si scanna e che s'ammazza a vantaggio della razza o a vantaggio d'una fede per un Dio che non si vede, ma che serve da riparo al sovrano macellaro, che sto comodo assassino che ci insanguina la terra, sa benone che la guerra è un gran giro dei quattrini, che prepara le risorse per i ladri delle borse. Fa la ninna, cocco bello, finché dura sto macello. Fa la ninna, che domani rivedremo gli sovrani, che se scambiano la stima, buoni amici come prima, so cugini e fra parenti non si fanno complimenti. Torneranno più cordiali i rapporti personali e riuniti fra di loro, senza l'ombra d'un rimorso, ci faranno un bel discorso sulla pace e sul lavoro per quel popolo coglione risparmiato dal cannone. Io sono la nipote di un sopravvissuto che una volta chiamavano partigiano. Avevo poco più di 6 anni quando mio nonno mi portò a visitare un monumento qui a Roma, un monumento chiamato Mausoleo. Ricordo che partimmo in macchina, una vecchia 500, con un fiore rosso destinato a un amico. E io di quella visita ricordo il buio delle cave, il freddo da un sapore livido, il silenzio opprimente, come l'odore della terra che porta tutto giù e portandosi dietro anche chi resta. Però quel luogo, le fosse ardeatine, non aveva il sapore della morte. Tutto gli parlava di una guerra giusta chiamata resistenza. E oggi mio nonno, Mario Di Maio, è uno degli ultimi sopravvissuti al bombardamento del 19 luglio del 43 ed è una delle ultime voci della resistenza che fece di Roma, di questa città, una città ribelle. E ancora oggi la sua voce si spezza nel pianto quando rivive la rabbia di una strage vigliacca e criminale che gli portò via uno dei suoi più cari amici fra i combattenti delle formazioni partigiane di Bandiera Rossa, il dottor Maglio Gelsomini, il medico di San Lorenzo, un uomo buono, un uomo che curava gratuitamente gli abitanti del suo quartiere. Gelsomini viene catturato dalle SS di Kappler, rinchiuso a Via Tasso, e poi viene massacrato nella strage delle fosse ardeatine. Ma alla fine di quell'amico non gli aveva lasciato rimpianto, disperazione, ma un testamento. quello di una scelta di ribellione. E dopo l'8 settembre del 43 aveva portato molti ragazzi come lui a mettersi fuori legge per farla finita con un regime che aveva trascinato la patria nel fango grazie a Mussolini e ai suoi miti guerrieri. E a San Lorenzo, lungo lo scalo ferroviario devastato dalle bombe, anche la famiglia di mio nonno aveva scontato la persecuzione del regime. Per mio nonno l'infanzia era stata l'umiliazione di vedere un padre col volto tumefatto per le botte ricevute in carcere, schedato e sorvegliato per tutto il ventennio come oppositore di regime. Fin dal 1922, quando aveva impedito alle squadracce di entrare a San Lorenzo. A noi di San Lorenzo il fascismo non piaceva. E quando a Piazza del Verano, davanti alla casa dei Balilla, il capitano obbligava a leggere la scritta «Credere, obbedire e combattere, se avanzo seguitemi, se indietreggio, sparatemi!» Molti ragazzini si rifiutavano. E certo poi erano botte col bastone. Ma i ragazzini di San Lorenzo sapevano vendicarsi bene. «Capitano, è desiderato fuori!» E appena usciva, gli piombava un cocomero sulla testa da qualche parte. E poi però la guerra aveva fatto la sua entrata in scena, portandosi via la spensieratezza, gli anni di gioventù. Quando le bombe avevano cominciato a cadere su San Lorenzo, mio nonno, che aveva 16 anni, si era ritrovato in trappola, braccato negli stanzoni del carcere minorile di Via dei Retti perché aveva fatto a botte col figlio di un capo manipolo del Rione. Le guardie del carcere si erano nascoste in un rifugio, lasciando i detenuti come topi sotto le macerie. E fuggito da quell'inferno, attraverso una grata spaccata, mio nonno, un ragazzo di 16 anni, aveva ritrovato un bambino con la fronte spaccata e se l'era preso in braccio. Se l'era preso in braccio per 2 ore, non lo aveva mollato un attimo. E in fuga per le strade, aveva, ad ogni spostamento d'aria, si era buttato sopra quel piccolo sconosciuto per proteggerlo dalle incursioni aeree. E poi si era accorto che un cane li stava seguendo. E pare quasi di vederli, un ragazzino con in braccio un bambino e dietro un cane che li segue fra le macerie. Scappiamo in ogni direzione, mentre tutto intorno a noi crolla, non si vede niente, si alzano nuvole di polvere, i boati delle bombe americane impediscono di distinguere le voci di aiuto che arrivano da tutte le parti. Io bendo la fronte sanguinante del bambino con un pezzo della mia camicia che sembra tagliata con le forbici e cerco di nasconderlo sotto un tavolino e trema e ci raggomitoliamo tutti e tre, io, il bambino e il cane. Tutto intorno, un'unica nuvola di polvere, le chiome degli alberi che saltano letteralmente per aria. Sono assetato, la gola è piena di polvere. Qui acqua non c'è, mi dice una signora, ma ti posso dare sta pesca, avevo fatto la spesa. E io non mi reggo più in piedi. E quel giorno, in quell'inferno, c'è anche un altro ragazzo. Ha 20 anni, studia medicina, si chiama Rosario Bentivegna e ha trascorso tutta la notte a operare, a amputare i feriti che arrivano all'ospedale policlinico. E davanti ai suoi occhi resta l'immagine delle ragazze del mulinificio Pantanella impazzite dalla paura, contenute dalla camicia di forza. Erano le 7 di sera, davanti a me una colonna di gente straziata e disperata che da San Lorenzo si dirigeva verso Porta Pia, lungo viale del Policlinico. Vagava, non sapendo dove andare, con le carrozzine per bambini cariche di quello che era riuscita a trattenere. La vedo ancora davanti ai miei occhi, con un brivido lungo la schiena. Forse anche per la stanchezza io mi misi a piangere come un ragazzino. E in quel momento decisi. Chi ci aveva ridotto così doveva pagarlo. Non potevamo accettare quello sfacelo provocato da criminali che ci avevano trascinato in una guerra avventurista, mal preparata, contro un mondo ben più attrezzato di noi. In un solo istante morte, abbandonai tutte le idee di pacifismo che mi avevano ispirato. L'idea che io in guerra avrei fatto soltanto il medico, che mi sarei limitato a salvare vite umane senza alcuna distinzione tra amici o nemici, tra gente ferita o in punto di morte. Io, quel 19 luglio del 43, decisi che era arrivato il momento di rovesciare il fascismo. Sei giorni dopo, il 25 luglio del 43, Mussolini cadde. Fu il giorno più felice della mia vita, dopo quello della mia prima comunione. Io mi chiamo Carla. Mi sono svegliata con le ossa rotte stamattina. La pleurite mi sta distruggendo. Sono mesi che dormo in questo rifugio, a via Marco Aurelio, che mi lavo con l'acqua gelida e stanotte non ho dormito. Marzo è cominciato male. Siamo braccati dalle milizie fasciste che sono in città e i nazisti ci hanno scatenato contro una guerra spietata. Il 7 all'alba hanno fucilato 10 nostri compagni. Gianfranco Mattei, l'artificiere dei GAP, si è impiccato in cella per non parlare dopo 4 giorni di torture a Via Tasso. Ma noi al nemico non diamo tregua. Ci chiamano banditi, ma gli assassini non siamo noi. Dobbiamo nasconderci come topi. Siamo stanchi, siamo affamati. E mi si è attaccata addosso puzza di muffa. L'ultima volta che ci siamo incontrate a Santa Maria Maggiore, mia madre me lo ha detto: «Fia mia, ma dove dormi?» Ma i romani sono con noi. Fa troppo freddo in queste cantine. C'è casa di Mario in centro, una casa vuota dopo il rastrellamento, e forse potremmo andare lì a riposare. È un ultimo piano e dovrebbe essere sicuro. Oggi è giovedì 23 marzo. I fascisti si preparano a festeggiare il 25esimo anniversario di fondazione dei fasci di combattimento. E io mi chiedo: sto facendo davvero la cosa giusta? Sì, sto facendo la cosa giusta. Stiamo combattendo l'unica guerra giusta da fare. Eppure, mi fa sempre male sparare a un uomo. Anche se è un nazista, mi fa male vedermelo morire davanti. Mi dà nausea, voglia di vomitare. I nazisti ci temono, ma sono dei vigliacchi. Invece di sfidarci corpo a corpo, se la prendono con i civili. E oggi noi vendicheremo Teresa Gullace. Era incinta di 8 mesi e ho visto con i miei occhi come l'hanno ammazzata sotto la caserma di Viale Giulio Cesare, mentre cercava di tirare un pacco di cibo al marito che era stato arrestato. Teneva per mano il figlio più grande e un tedesco l'ha sollevata da terra e le ha sparato sotto il mento, lasciando il corpo per terra. La mia pietà è morta con lei. Colpiremo una colonna tedesca di circa 160 uomini delle SS. Mario ha notato che passa ogni giorno tra le 2 e le 3 del pomeriggio sotto casa sua, poco distante da via dei Due Macelli. Marciano cantando, spavaldi, e sono armati di fucile, di pistole, di bombe a mano tedesche, quelle che noi chiamiamo ammazzarello. Li attaccheremo a via Rasella. Una strada stretta, in salita, che è sempre deserta. Così non metteremo a rischio i civili. E sarà Paolo, travestito da spazzino, ad accendere la miccia dell'esplosivo. L'esplosivo che ci hanno dato gli operai della Romana Gas, quelli che hanno buttato via la divisa, schifati per quello che hanno visto nelle guerre fasciste. E poi gli altri compagni all'angolo di via del Boccaccio partiranno con un secondo attacco, con lancio di bombe a mano, bombe da mortaio Brizia. Sarò io a portarle dentro un sacco della spesa pieno di verdura. Io, Carla, devo coprire Paolo. Una volta innescata la miccia scapperà e io lo coprirò con un impermeabile per nascondere la divisa da spazzino. Loro sono 162 uomini armati. Noi siamo 11 ragazzi con una pistola in tasca e 4 bombe artigianali che non sappiamo se funzioneranno. Noi siamo al di fuori della legge, siamo banditi. Eppure io mi sento una patriota che combatte per la libertà della mia patria invasa. Io sono l'unica donna in questa azione militare e aspetto nervosamente davanti alla sede del Messaggero a Via del Tritone. Ho l'impermeabile da uomo in braccio. Due poliziotti insospettiti mi si avvicinano. Pasquale Balsamo se ne accorge e mi viene incontro. Se fra 10 minuti non arrivano, ce ne andiamo. Li stiamo aspettando da un'ora, tutto è pronto. Oggi tardano. E Paolo, che deve accendere la miccia con la pipa, ha consumato quasi tutto il tabacco. I compagni sono tutti schierati e siamo tesi. Poi Salinari, piazzato alla fine della strada, ci fa cenno che i tedeschi stanno arrivando. Sono le 15:52. Cantano Öff, meine Mutter. Salta, ragazza mia, salta. Il maggiore ci vuole alte di morale. Dice, cantate. Ma fa facile lui che sta sulla camionetta. Io preferisco concentrarmi sul rimbombo sordo dei nostri stivali a questa stupida canzone. Svolto per via Rasella. Vedo Paolo in mezzo alla strada che maneggia con la scopa. Si vede proprio che non è uno spazzino vero. Salgo sulla salita, ho i grampi ai polpacci. La colonna compare sul fondo della strada. Calamandrei, all'angolo di via del Boccaccio, si toglie il cappello. È il segnale. Paolo accende la miccia e corre verso di me. Guarda quel tizio tutto cenci e stracci, poveracci, sti romani, straccioni, altro che le 12,5 lire che ci dà Hitler a noi, guardiani di Roma! Dieci italiani per ognuno di noi 33 nazisti caduti a Via Rasella. Questa è la nostra vendetta. Nessuno ci ha chiesto mai di consegnarci. Nessun manifesto. Anche se questa bugia è diventata la verità. 335 ostaggi massacrati dentro cave di pozzolana abbandonate sulla via Ardeatina. Noi lo abbiamo saputo solo leggendo sul Messaggero. Quest'ordine è già stato eseguito. L'altro giorno il partito mi ha chiesto di abortire. Sono rimasta incinta di un uomo sposato e una signorina tanto per bene non può diventare una ragazza madre. Sarebbe uno scandalo. Così in aula, alla Camera, durante un dibattito, ho detto che se le ragazze madri non le rappresenta nessuno, le rappresento io. Alla faccia di Togliatti, che mi chiama la ragazzina anarchica, perché io mi chiamo Teresa Mattei, e tutti mi conoscono perché sono stata la più giovane delle ragazze elette all'Assemblea Costituente, anche se certe volte mi chiamano ancora Chicchi, col nome di battaglia che usavo durante la guerra partigiana. Ma il primo giorno che ho messo piede a Montecitorio, i giornali parlavano del mio aspetto fisico, non della mia storia. La più giovane delle deputatesse ha molti riccioli bruni e due begli occhi vivi, ha scritto il Messaggero. Io però me lo posso permettere di dire di no, anche a Togliatti. Sarà perché ho vissuto il carcere e la tortura, o forse perché nel 1938 sono stata espulsa da tutte le scuole del regno. Ho alzato la voce contro le leggi razziali. Ma la patente di ribelle io l'ho presa presto. E noi donne, con la resistenza, ci siamo prese la storia. Abbiamo rotto tutte le gerarchie. Abbiamo spento per sempre il sacro focolare domestico della moglie e della madre esemplare per correre incontro alla nostra libertà. E anche in quest'aula di democratici qualcuno ci considera ancora meno intelligenti, perché il genio è maschio, come diceva il fascismo. E durante un dibattito un deputato democristiano mi ha fatto notare che le donne sono irrazionali, incostanti, deboli, sono bisognose di tutela perché hanno il ciclo mestruale e non possono diventare magistrati. Signorina, ma lei lo sa che in alcuni giorni del mese le donne non ragionano? E lei lo sa che ci sono uomini che non ragionano tutti i giorni dell'anno? Sono irriverente, lo so. D'altra parte, l'articolo 3 della Costituzione porta la mia firma. Tutti i cittadini sono uguali senza distinzione di sesso, di razza, di lingua o di religione. Quel di sesso l'ho aggiunto io. E avrei voluto aggiungere anche senza distinzione di età. Perché i bambini devono essere consapevoli fin da piccoli di poter esercitare i loro diritti senza paura, anche disobbedendo. Disobbedire in fondo non vuol dire assumersi una grossa responsabilità? Se ci pensate bene, nella disobbedienza c'è una scelta di responsabilità assai maggiore che nell'obbedire. I nazisti si sono sempre nascosti dietro al dito degli ordini ricevuti per obbligo di obbedienza. E noi invece, noi ribelli che abbiamo combattuto alla macchia da partigiani, abbiamo scelto di disobbedire. E io me lo ricordo bene quando mio padre mi insegnò a scegliere. La nostra casa a Firenze era un covo di cospiratori, frequentata da Piero Calamandrei, Giorgio Lapira, Natalia Ginzburg. La prima prova importante per me è arrivata nel 1937. Avevo 16 anni e papà mi spedì a Nizza per consegnare denaro ai fratelli Rosselli. Quei soldi servivano a finanziare la lotta che le brigate internazionali stavano combattendo in Spagna contro i miliziani di Franco. Oggi in Spagna e domani in Italia, si diceva, immaginando una guerra giusta chiamata resistenza che un giorno ci avrebbe liberato dalle catene della tirannia fascista. Così, con mio fratello Gianfranco, ho deciso di lasciare Firenze e sono partita per Roma. Gianfranco è un genio della chimica, è diventato professore ordinario a 27 anni con gli studenti che hanno poco più della sua età. E a Roma è in contatto con Antonello Trombadori e Giorgio Amendola, i capi dei GAP. Il suo compito è fabbricare esplosivi e organizzare la Santa Barbara dei GAP. Insegnare ai partigiani come montare e smontare bombe a mano da nascondere sotto al letto e usare contro gli attacchi al nemico. Ma io parlo di lui ancora al presente. Sì, fratello mio, sono stata io con mamma a ritrovare il tuo corpo. Ti abbiamo cercato tanto e poi a prima porta ti avevano buttato dentro una fossa comune come un sacco di immondizia. Ma nostro padre ci ha insegnato a non mollare. Così sono partita per tornare a Firenze. E tu lo sai cosa mi è successo, ma non è stata colpa tua se non sei riuscito a proteggermi. In viaggio pensavo alla nostra lotta che non era ancora finita, a quanto avrei mai dovuto cedere al ricatto della paura. Alla fine ero su un camion e una pattuglia tedesca ci ha fatto scendere a Perugia. Pensavano che volessi farlo saltare in aria e così mi hanno portato in un posto di polizia. E lì per giorni con me non si sono risparmiati. Mi hanno spaccato tutti i denti. Mi hanno rotto un rene col calcio del fucile. Mi hanno stuprata per giorni. A guardare la scena c'era un centurione repubblichino, un po' grasso, che in fondo era un buon uomo. E a guardare quella scena piangeva perché aveva una figlia della mia età. Così la notte mi ha fatto scappare da una grata, una finestra. Ho fatto un volo di 3 metri da quella prigione e piangevo, disperata. Ma Firenze l'ho raggiunta. E ho ricominciato a picchiare più forte. Ho ucciso il capo della polizia tedesca davanti all'Hotel Arno. Ho piazzato una bomba in pieno centro e sono stata io, nome di battaglia Chicchi, a far esplodere un carico nascosto dai tedeschi in un tunnel. Io e gli altri compagni dei GAP abbiamo ucciso Giovanni Gentile, che aveva fatto ammazzare tanti ragazzi italiani fucilati perché avevano detto no ai bandi di arruolamento della Repubblica Sociale Italiana. Un piccolo, ambizioso filosofo autarchico che faceva carriera mentre nelle galere marcivano Antonio Gramsci e Umberto Terracini. Mi chiamano Chicchi e questo è stato il mio lungo viaggio. Ma di certo quel periodo storico che ci ha portato alla guerra in casa ha prodotto indirettamente e di sicuro involontariamente un'estetica di reazione, cioè alcune delle pagine più significative della letteratura del secondo Novecento. Ecco, qualcosa di buono. A cominciare da un sentiero di nidi, un sentiero di nidi di ragno. 1947, Italo Calvino ha 24 anni e racconta la guerra partigiana che ha vissuto nella sua Liguria, come si dice, in prima persona, dal punto di vista di un bambino, Pin. È una prima persona, ma è anche il plurale di una intera generazione. Per chi come me e come molti di noi, anche qua, questa sera, in questa piazza, ha fatto il CAR, cioè il centro addestramento reclute, soltanto, grazie a Dio, in biblioteca, tra i libri. La guerra partigiana l'ha conosciuta direttamente dal commissario Kim, che dice: questo non è un esercito. Non puoi parlare di dovere qui, non puoi parlare di ideali, patria, libertà, comunismo. Non ne vogliono sentir parlare di ideali. Gli ideali sono buoni tutti ad averli, anche dall'altra parte ne hanno di ideali. Qui si combatte e si muore così, senza gridare evviva. E allora cosa li spinge a combattere? Dimmi. Vedi, ci sono i contadini, gli abitanti di queste montagne. Per loro è già più facile. I tedeschi bruciano i paesi, portano via le mucche. È la prima guerra umana la loro, la difesa della patria. I contadini hanno una patria. Così li vedi come noi altri, con noi altri, vecchi e giovani, con i loro fucilacci, paesi interi che prendono le armi. Noi difendiamo la loro patria, loro sono con noi. Per altri contadini invece la patria rimane una cosa egoistica, casa, mucche, raccolto. E per conservare tutto diventano spie, fascisti, interi paesi, ma nostri nemici. Poi gli operai. Gli operai hanno una loro storia di salari, di scioperi, di lavoro e lotta gomito a gomito. Sono una classe gli operai, sanno che c'è del meglio nella vita e che si deve lottare per questo meglio. Hanno una patria, anche loro, una patria ancora da conquistare. Poi c'è qualche intellettuale, un studente, ma pochi, quella con delle idee in testa vaghe e spesso storte. Hanno una patria fatta di parole, o tutto al più di qualche libro, ma combattendo scopriranno nuove cose nella lotta degli uomini, finché non cercheranno delle nuove parole e ritroveranno le antiche, ma cambiate. Ma capisci che questa è tutta una lotta di simboli, che uno per uccidere un tedesco deve pensare non a quel tedesco ma a un altro. Ogni cosa o persona diventa un'ombra cinese. C'è qualcos'altro comune a tutti, un furore. Gente che non ha niente da difendere, niente da cambiare, eppure tu sai che c'è coraggio, che c'è furore anche in loro. È l'offesa della loro vita, è il buio della loro strada, il suicidio della loro casa, le parole oscene imparate fin da bambini, la fatica di dover essere cattivi. E basta un nulla, un passo falso, un impennamento dell'anima, e ci si trova dall'altra parte, dalla Brigata Nera, a sparare con lo stesso furore, con lo stesso odio, contro gli uni o contro gli altri, fa lo stesso. Quindi lo spirito dei nostri e quello della Brigata Nera è la stessa cosa. Kim si è fermato e indica con un dito, come se tenesse il segno leggendo. La stessa cosa, ma tutto il contrario. Perché qui si è nel giusto, là nello sbagliato. Qua si risolve qualcosa, là si ribadisce la catena. Quel peso di male che grava sugli uomini del dritto. Quel peso che grava su tutti noi, su me, su te. Quel furore antico che è in tutti noi e che si sfoga e spari, nemici uccisi, è lo stesso che fa sparare i fascisti, che li porta a uccidere con la stessa speranza di purificazione, di riscatto. Ma allora c'è la storia, c'è che noi nella storia siamo dalla parte del riscatto, loro dall'altra. Da noi niente va perduto, nessun gesto, nessuno sparo, pur uguale a loro va perduto. Tutto servirà se non a liberare noi, a liberare i nostri figli, a a costruire un'umanità senza più rabbia, serena, in cui si possa non essere cattivi. L'altra è la parte dei gesti perduti, degli inutili furori, perduti e inutili, anche se vincessero, perché non fanno la storia, non servono a liberare ma a ripetere e perpetuare quel furore e quell'odio, finché dopo altri 20 o 100 o 1000 anni si tornerebbe così, noi e loro, a combattere con lo stesso odio anonimo negli occhi e pur sempre, forse senza saperlo, noi per redimergene, loro per restarne schiavi. Questo è il significato della lotta, il significato vero, totale, al di là dei vari significati ufficiali. Una spinta di riscatto umano, elementare, anonimo, da tutte le nostre umiliazioni. Certo, io potrei adesso, invece di fantasticare come facevo da bambino, studiare mentalmente i particolari dell'attacco, la disposizione delle armi, delle squadre, ma mi piace troppo continuare a pensare a quegli uomini, a studiarli. Cosa faranno dopo, per esempio? Riconosceranno nell'Italia del dopoguerra qualcosa fatta da loro? Capiranno il sistema che si dovrà usare allora per continuare la nostra lotta? La lunga lotta, sempre diversa, del riscatto umano. Sono trascorsi 80 anni dalla fine della guerra di liberazione e quasi nessuno dei protagonisti di quella stagione è più con noi. Le poche voci rimaste sono sommerse dal fragore mediatico o peggio ancora dimenticate. Chi qualche anno fa ha intervistato gli ultimi partigiani sopravvissuti li ha trovati rintanati in una profonda solitudine, quasi degli emarginati, ricoverati in case di riposo o in alloggi popolari, bersaglio di una società che continua a prendere di mira in maniera indecente i valori in cui avevano creduto in gioventù. Ogni anno ad Accalarenzia, in questa città, davanti a quella che un tempo fu la sede del movimento sociale italiano all'Appio Latino, si radunano centinaia di neofascisti nostalgici, si definiscono patrioti al grido di presente e inneggiano ai caduti della rivoluzione fascista. Sono i figli di quel popolo dei vinti, sempre pronto a celebrare l'idea immortale, che però era già morta e sepolta con la caduta di Mussolini il 25 luglio del 43. Sono i figli dei vinti che oggi distruggono le lapidi di Giacomo Matteotti, che non ha mai ceduto alla violenza del partito armato. Allora, in un paese come il nostro, in cui la mistica fascista viene continuamente alimentata dalle false notizie sul passato, in cui sono le stesse istituzioni a favorire i processi di rimozione, a manipolare la storia, a colpi di autoassoluzione sul fascismo, forse vale la pena di ascoltare le parole di chi patriota lo è stato davvero. Se mi avessero cercato, certo che mi sarei presentato, ma l'avrei fatto alla mia maniera, con le armi in pugno. E invece no, non una parola, non un avviso, se non quel terribile l'ordine è già stato eseguito. Queste parole le ha scritte Rosario Bentivegna pochi mesi prima di morire, e forse è proprio dalla leggenda nera sui manifesti di Via Rasella, manifesti che non sono mai esistiti, che possiamo chiudere questo viaggio per capire oggi che cosa resta dell'eredità della Resistenza nella Repubblica. Perché noi, a tutti quei ribelli, a quei combattenti irregolari, a quei ragazzi disposti a mettersi fuori legge, a quei ragazzi partigiani che lottarono contro Mussolini e i suoi miti guerrieri, noi oggi dovremmo solo riconoscenza. Perché allora chi decise di darsi alla macchia e di farsi partigiano cercò soltanto di resistere a una guerra spietata, una guerra totale di sterminio, la guerra casa per casa fatta di rastrellamenti, con incendi a case e villaggi, con corpi impiccati sulla pubblica piazza, a monito della popolazione civile, con torture sui corpi dei prigionieri politici, eccidi, stragi, deportazioni, stupri contro le donne. Avevano combattuto senza esperienza, sì, e spesso senza preparazione, E la loro scelta di combattere non fu una decisione presa a cuor leggero. Convincersi all'uso della violenza è stato un dramma di coscienza, attraversato da dubbi, da crisi, da tormenti interiori. Perché in fondo ogni caduto somiglia a chi resta e gliene chiede ragione, come avrebbe scritto Cesare Pavese nella sua casa in collina. Ecco, allora, senza fare troppa retorica, noi oggi dovremmo tornare al senso profondo di quella scelta che trasformò tanti giovani combattenti volontari dagli abiti laceri, dalle scarpe rotte, straccioni, affamati, come li chiamavano i tedeschi. Giovani donne e uomini, convinti che fosse giunto il momento di opporsi in maniera definitiva, risoluta e forte, se necessario anche con la violenza, contro chi la violenza la stava usando mille volte di più. Misurarsi con la politica del terrore, senza cedere mai alla paura, mai al ricatto delle rappresaglie. È stata una scelta coraggiosa ma non scontata. È stata una scelta dolorosa e carica di responsabilità. Ed è proprio a questa scelta che il Paese dovrebbe riconoscenza. E invece, ad ogni anniversario del 25 aprile, il Paese è scosso da un processo alla Resistenza che punta il dito sulle ragioni dell'antifascismo, confondendo torti e ragioni, meriti e bassezze, valori e disvalori, che cerca di equiparare le azioni partigiane addirittura ad atti di terrorismo. E invece si assiste ad una generale riabilitazione del fascismo, quasi a giustificare le colpe dei tanti crimini commessi dai militi della Repubblica Sociale Italiana, buoni padri di famiglia, costretti solo ad obbedire agli ordini dei superiori. Ma la Resistenza ha affermato il diritto di un popolo a non farsi massacrare, a non farsi annientare senza muovere un dito. E il 25 aprile è il simbolo di questa libertà riconquistata a caro prezzo. È una giornata chiamata a celebrare il ricordo per le generazioni future di quei 20 mesi di guerriglia trascorsi clandestinamente sulle montagne, dove ognuno, tra agguati, rastrellamenti e paure, ognuno a modo suo aveva imparato a combattere per l'indipendenza della patria e per la nostra dignità di uomini liberi, e in tutte le sue forme, ovunque si combattesse. Nelle città come Roma, presidiate dai GAP, o a nord della linea gotica tra gli Appennini e il Po, e ancora con la mobilitazione sociale nei luoghi di lavoro, nelle fabbriche, nelle campagne, la Resistenza rappresentò il senso più profondo della lotta contro questa politica criminale. Ma cosa dobbiamo festeggiare? Si era chiesto Giorgio Almirante nel 55, 10 anni dopo la fine della guerra di liberazione. Ecco, forse questo dobbiamo festeggiare. Dobbiamo festeggiare un'eredità, facendoci noi testimoni del tempo, dando noi valore oggi a quella scelta antifascista coraggiosa, al di là di ogni mistificazione, di ogni tentativo maldestro di riscrittura della storia. Che quella generazione la guerra non l'aveva voluta, ma era stata costretta a battersi per necessità e non per odio. Capimmo allora, poco più che ventenni, che la pace tra uomini liberi era la cosa più bella al mondo, e quella lezione non l'abbiamo mai dimenticata. Noi che abbiamo dovuto batterci nella più feroce delle guerre e abbiamo visto cadere al nostro fianco tanti amici, compagni, tante persone che c'erano care. La guerra è la cosa più sporca, più ignobile che all'uomo possa capitare di vivere, anche se i fascisti la invocavano e la acclamavano come unica igiene del mondo. Se voi volete andare in pellegrinaggio nel luogo dove è nata la nostra Costituzione, andate nelle montagne dove caddero i partigiani, nelle carceri dove furono imprigionati, nei campi dove furono impiccati, dovunque è morto un italiano per riscattare la libertà e la dignità della nazione. Andate là, oh giovani, col pensiero, perché là è nata la nostra Costituzione. Piero Calamandrei. Non permetteremo mai che il popolo italiano sia ricacciato indietro. Non vogliamo che le nuove generazioni debbano conoscere la nostra amara esperienza. Ci siamo battuti e ci battiamo perché i giovani diventino e restino sempre uomini liberi. E ad essi vogliamo consegnare intatto il patrimonio politico e morale della Resistenza, perché lo custodiscano e non vada disperso. E alle loro valide mani noi affidiamo la bandiera della libertà e della giustizia sociale, perché la portino sempre avanti e sempre più in alto. Viva la Resistenza! Sandro Pertini. Estratti dello spettacolo Liberi Sempre, letture della storica Michela Ponzani e dello scrittore Valerio De Filippis, musiche di Marco Caparrelli, chitarra e voce, Marcello Lardo, chitarra e basso, Nicolò Pagani, basso, Andrea Borrelli, batteria. Lo spettacolo Perché io, perché non tu, di Barbara Balzerani, drammaturgia e voce Tamara Bartolini, sonorizzazioni, chitarra e voce Michele Baronio. Tutto è cominciato per caso. Buttare fuori dal groviglio penoso del muto parlare fra me e me, insopportabilità di un assordante silenzio in cui è interdetta la memoria e la libera parola. Questo è il risultato dei miei interrogativi più urgenti. È la richiesta di aiuto per provare a scioglierli. Queste parole non sono rivolte a chi si scandalizza che oltre alla sopravvivenza mi sia concessa anche la vita, cioè la parola. Non a chi sa già tutto, non agli innocenti, ai vincitori, alle anime belle, non solo agli amici, non ai nemici, non ai collezionisti di curiosità di costume, ma a tutte le altre e gli altri. Che pure non conosco, che non mi conoscono, ma che, come me, sanno del disagio di un mondo di rappresentazioni che sempre meno significano la memoria e l'esperienza di ciascuno. Se ci fossero ancora, mi piacerebbe le leggessero soprattutto mia madre e mio padre. Che odore ha la sera? La voce è piccola come il corpo. La seguo. La vedo camminarmi accanto, sedersi su una panchina di Piazza Vittorio e domandarmi che odore ha la sera? Ma io dov'ero? Quando continuava a farsi sera giorno dopo giorno. La osservo. Cerco risposte dentro il viso da ragazzina su cui è scolpita la storia. La sua, la mia. La osservo. Si guarda attorno come se dovesse rendere conto a qualcuno del suo corpo seduto su una panchina. Forse è la prima volta che si ritrova fuori di sera. Sento tutto. Le ombre, le luci, i riflessi. Come mai non riesco a controllare tutto questo sentire? Il carcere sublima ogni desiderio. A volte si può star male da cani solo per l'odore improvviso nella piega di un braccio. E così sei animale, albero, brezza, pura sensibilità. Ora è lei a guardarmi. Mi scruta, mi odora. E il suo corpo ha la forma di una domanda. E io penso che le domande infrangono i muri. Il silenzio e la perdita di memoria. Dove mi devo cercare? Dov'è la vita? Me lo chiedo anch'io. Dove mi devo cercare? Dov'è la vita? La trovo, la risposta. La risposta la trovo in una sua lettera scritta a qualcuno che non c'è più. Ho avuto la fortuna di vederti almeno una volta con il tuo omaggio a Roma. Lo spettacolo non l'avrei potuto vedere per intero. Il mio orario di rientro in carcere scadeva prima della fine dell'ultima scena. Invece, eccomi. Su il sipario, e un'onda d'urto mi attacca alla poltrona. Fanciulle dai lunghi capelli, uomini con manifeste calvizie e signore abbondanti mandano in onda la vita sulle assi imbalsamate del teatro Argentina, braccia come pale a vento, colori. Nonostante tutti si muovano, non è un racconto d'azione, è dolore, emozione, erotismo, seduzione resi con la maestria di chi prova a esprimere la fragilità di ognuno e a trovarne consolazione, è la bellezza che solo l'amore per la vita, per come la vita è, può riprodurre nelle forme dell'arte. È stupore di fronte alle prove del vivere, nulla da capire, come spesso accade nelle vicende umane, nell'insoluto di mille domande e lode alla gratuità del sentire di chi è disposto ad accettarne il dono, fine del secondo atto. Devo andare via. Mi alzo di scatto per non perdere il coraggio, il teatro è pieno, il personale schierato davanti alle pesanti tende di velluto mi guarda e una signorina mi chiede: «Si sente male, signora?» Quanto non potrebbe mai capire. Passo giornate a riprendere fiato. Fatto. Adesso quel potente flusso vitale è dentro di me e io ne faccio parte. Faccio parte dell'ironia di sguardo dei danzatori che dalle prime file invitavano il pubblico alla festa con piccoli doni. Faccio parte di questo affresco di una Roma frivola, da trattoria. La Roma che distoglie lo sguardo, tollerante e corrotta quanto basta per contiguità ai tanti palazzi del potere. Faccio parte di quella potenza, di quel carattere che accomuna, non giudica, non dà lezioni, che compatisce. Adesso, se tu tornassi a scoprire come si è fatta Roma, forse interpreteresti la ferocia, la paura e l'indifferenza sulle troppe facce imbruttite come uno scherzo, una brutta messa in scena, ma tu non tornerai. Bisognerà vigilare e battersi per impedire che si parli della tua arte rivoluzionaria come un caso da esposizione muto e inanimato. Bisognerà ricordare che quella dea dalle braccia alate aveva abitudini poco raccomandabili, che componeva le sue creazioni con artisti di ogni nazionalità, che mescolava suoni e tracce culturali di ogni dove, ne tirava fuori il tratto universalmente umano, che dopo lo spettacolo preferiva finire la serata a ballare in un campo rom o in uno dei locali mal frequentati alle pendici del Monte dei Cocci, ai salotti preferiva percorrere i vicoli in cui si annida la vita, l'esile signora vestita di nero che in dissolvenza continuerà a salutarci dal proscenio, lasciandoci ogni volta più soli. Amore, amore, amore, amore, amore, amore mio, in braccio a te mi scordo ogni dolore, voglio restare con te se non me moro, voglio restare con te se non me moro, non piangere. Amore mio, non piangi, state zitto su sto cuore, ma se te fa soffrire, dimmelo pure. C'hai da di, dimmelo pure. Te penso, vuoi fare da grande? A me nessuno l'ha mai chiesto. Se qualcuno l'avesse fatto, non avrei parlato di merletti e scarpette di vernice. Forse avrei detto che volevo vivere il resto dei miei giorni tra i profumi del forno della signora Marietta. Luogo di sogno, dove da bambina mi spedivano a cuocere grandi teglie di cibo. Rimanevo là, in attesa di riportare a casa quel ben di Dio, e mi inebriavo dell'odore delle buone patate che arrostivano, ma soprattutto del profumo di dolce che saturava l'aria. Lo stesso che ritrovavo addosso alla nipote della fornaia. Sembrava fatta di cioccolata. Stavamo sempre insieme e insieme andammo anche dalla merciaia a provare i vestiti della comunione. Scoppiavo d'orgoglio e di felicità per quei veli bianchi che mi arrivavano fino a terra. Mi sentivo una regina, neanche a carnevale mi capitava. Di che ti mascheri quest'anno? Dalle donne che vengono a vendere le verdure al mercato coperto. Arrivavano con la cesta in testa, con le mani libere tenevano attaccati i figli più piccoli, si mettevano sulle scale dell'edificio e a gran voce offrivano la merce del giorno, i prezzi, gli sconti. Avevano figlie che venivano con le scarpe infangate a farsi bocciare alla scuola elementare, avevano un passo più lento del nostro, che andavamo spediti dietro al progresso all'ombra di una ciminiera alta di fumo. Avevano gonne abbondanti e un colorito di aria e di sole. Io mi vestivo come loro a carnevale, con il corpo petto nero della domenica e la faccia truccata. Guardatela quanto è bella, bianca e rossa come una mela. Ma quella volta, dalla merciaia, mi abbandonai all'euforia del riscatto. Guardavo le nostre immagini nel grande specchio ed ebbi la sventura di sussurrare: che belli. Esistono momenti che si stampano nella memoria e rimangono lì a bruciare. Dovesse passare una vita, clic, come uno scatto nella messa a fuoco, il mondo cambia faccia. La padrona del negozio, guardandomi come una larva che si crede farfalla, mi fece notare la differenza tra i due vestiti. Con un colpo solo mi aveva rivelato che ero povera, che si vedeva e che quindi era meglio che non mi facessi troppo notare il giorno del cerimoniale. Davanti ci sarebbero state quelle vaporose e abbondanti, per me un posto un po' più indietro, che anche i sacramenti esigono il rispetto dei prezzi delle stoffe. Se avessi saputo come fare, l'avrei uccisa. Perché tu, rosa, rose, rosarum, mi sembrò musica, e tutti quei libri tenuti da un elastico mi riempirono di fierezza. Sapevo che a casa mia o si studiava o si lavorava, e quella brutta scuola mi sembrò una fortuna che avrei fatto di tutto per conservare. L'edificio ospitava anche il liceo. Ci passavano davanti quei pochi che lo frequentavano, tutti figli di buoni padri. Li vedevamo passare, si somigliavano e non potevano essere confusi con noi che sciamavamo goffi e rumorosi spargendo indizi di unto di pizza. Loro sarebbero andati all'università. Loro sarebbero diventati dottori. Noi non avremmo mai avuto nulla a che fare, se non in relazioni dispari tra chi ha e chi lavora per la sua agiatezza. Il mondo andava così e non sarebbe mai cambiato, e non avrei mai creduto che invece stavo vivendo la vigilia della più grande smentita, che solo pochi anni dopo avrebbero dovuto spostarlo il liceo perché le sue classi si erano riempite dei figli degli operai, me compresa. Eravamo ancora vestiti in modo sbagliato e non giocavamo a tennis, ma avevamo la forza animale della sopravvivenza. Mi ricordo bene le facce. Non c'erano i figli degli ingegneri tra quelli con i voti più alti. C'eravamo noi, i non designati. Saremmo sempre stati gli ultimi nella rigida divisione sociale, ma avevamo scoperto che almeno dentro quelle aule potevamo farci valere per qualcosa che non era destrezza di mano o forza di schiena, ma fuoco delle nostre giovani menti. E non sapevamo ancora che succedeva, perché stava succedendo anche altrove. L'ultimo giorno di liceo a luglio del 1968. Una stanzetta in affitto è trovata per momento, vabbè. Siamo gente de borgata che alla vita se ti è, se domani comincia il carvario, non c'è altro da far, finirà sto calendario e qualcosa cambierà, siamo ricchi di volontà. dall'altra parte del mondo. D'inverno alle 5 di pomeriggio è già notte, le manifestazioni partivano quasi tutte a quell'ora, erano sempre cortei enormi. Spesso succedeva che le prime file non riuscivano neanche a muoversi, che la polizia già si preparava a caricare, ma avevamo imparato. Sapevamo come fare, un fuoco di sbarramento, la benzina che bruciava sull'asfalto, ma una sera con gli occhi incollati a quei bagliori riflessi sull'asfalto bagnato di pioggia, rimasi lì incantata, come davanti al falò sulla spiaggia, fino a far scadere il tempo della fuga. Quando tornai in me, avevo la truppa a due passi, ero rimasta solo io e un'anziana signora. Lei mi prese sotto braccio e si incamminò verso quel mare di divise. Meno male che ci siete voi, con tutti i delinquenti che girano. Passammo, la guardai, mi bofonchiò qualcosa, parlava di fascismo, di libertà, di sangue versato. Mi strinse il braccio e le uscì dal cuore: figlia mia, cerca di stare più attenta la prossima volta, che sono tempi brutti. Questi non si fermeranno davanti a niente pur di rimandarvi indietro. Il fragore del primo 12 dicembre era appena passato e ancora non sapevo che avrei fatto di tutto pur di continuare ad andare avanti. Un lavoro magari a giornata, per momento va bene, siamo gente de borgata che alla vita ci tiene, siamo nati da povera gente, è la nostra realtà, ma per via ce ne sono tante, tanti modi per sfondare, ora andiamo se la cerca, cuore mio, cuore mio, la speranza non costa niente, quanta gente c'ha tanti soldi e l'amore no, e stiamo meglio noi che non mangiamo mai. Core mio, la speranza non costa niente, se potrebbe sta pure meglio, ma che vuoi fa? Per ora ci stai tu, il resto arriverà, e stiamo meglio noi che non mangiamo mai. Che vuoi fare da grande? In carcere ci sono entrata all'inizio di un'estate. La mia cella, una del lungo corridoio della sezione isolamento, era sempre chiusa. Anche lo spioncino era chiuso. L'esterno mi arrivava con le voci delle altre, con la faccia della guardiana di turno che mi controllava, con i gatti. 2 ore d'aria al giorno. Dentro una cabina, in alto, una guardiana controllava i miei movimenti in quella vasca di cemento di pochi metri. Vivere a vista. Il corpo, i pensieri, l'intimità. Terreni di esplorazione per occhi e mani addestrati alla diffidenza. Il carcere addestra a vivere sotto un vetrino, dentro un laboratorio niente affatto asettico che trasuda passioni di un'umanità stremata. Ma quando arriva sto giudice? Chi c'ha una sigaretta? Voglio uscì, guardiana! Stavolta mi impicco davvero e aspetta che te porto un lenzuolo, così finalmente la fai finita. Mi ci sono dovuta abituare, senza sentirmi raggelare. In carcere non c'è mai silenzio. Per motivi diversi, carcerati e carcerieri si omologano nei comportamenti, nessuno parla, tutti urlano, non si chiudono cancelli, si sbattono, non si bussa alle porte, si prendono a calci, non si suonano campanelli, ci si rimane attaccati, non si cammina nei corridoi, si trascinano i piedi o si calcano i passi con anfibi pesanti, pochi e ripetuti gesti, tutti forzati, esagerati. Accentuarli serve a vincere gli indizi di morte del luogo con marcati segnali del corpo. Poi ho imparato che d'inverno nelle celle di isolamento c'è silenzio. Ora d'aria. Dalle finestre mi chiedono cosa possono mandarmi, chiedo del caffè vero, ma non ci viene consentito il passaggio, allora provano a farmelo avere direttamente dalla finestra. La bottiglia di plastica va a cadere fuori del cortile nel corridoio esterno. Non ho alcuna speranza di recuperare il prezioso regalo, sono in regime speciale e ogni mio spostamento avviene con 3 persone di guardia, ma quel giorno va come va. L'addetta al mio rientro dall'aria si presenta da sola, si volta a chiudere il cancello, mi chino, prendo la bottiglia e la avvolgo nel maglione, sono in cella, io e il caffè. Lo bevo tutto, per non lasciare indizi che possano mettere nei guai le mie benefattrici. È forte, buono, tanto. Non sono più abituata. e rimango 3 giorni senza dormire. Me ne rendo conto solo adesso. In carcere ho smesso di sognare, almeno di fare quei sogni che lasciano segni al mattino. Un'altra illusione caduta. Essere riuscita a non perdere il sonno ha sorretto per anni la convinzione di essere rimasta quasi immune dalla pervasività del luogo, come se nulla potessero urla, luci improvvise o cancelli sbattuti. E sono 5 anni che non dormo, mi dice la prima compagna che rivedo dopo tanto. Non replico, ma penso che io riuscirò a cavarmela meglio. Ma ancora non so che il sonno è un amante che esige intimità e totali abbandoni e rifugge la distrazione di sensi allertati sotto palpebre appena sussurrate, appena abbassate. Manto di amore soffuso, stelle sopraffatte dalle pulsazioni. L'assassino è apparso un giorno, ha saccheggiato sul suo cammino, squassato fondamenta di case, sconnesso legami, umiliato resistenze. La colpa di chi è? Ha messo tutti a sedere su cocchi di cartapesta e manovrato i comandi perché si interrompesse il contatto di ognuno e di tutti, nei mulinelli di mani che non riuscivano ad afferrarsi e di richiami che si perdevano lontani. Poi il frenetico giro di giostra si è fermato, tutti a terra, con le gambe molli e la nausea a tagliare il respiro e la colpa dei sopravvissuti. Eppure non sono stata altro che quella ragazzina che diventava grande. Ma neanche nei territori più arditi della mente avrei potuto prevedere. Lei, che con piccole mani fattive si era presa cura di ognuno, se n'è andata discreta, in punta di piedi come era vissuta, per non essere di peso. Mia sorella, piccola madre d'infanzia, luce compiuta nel tempo del silenzio, chissà se mi ha sentita in quelle ore d'attesa. Lasciateli andare i morti, altrimenti non trovano pace. Ma il tempo a volte non è così galantuomo da accordare il distacco alla fretta del commiato, e succede, anche molto dopo succede, di sentire contrarsi le mani che stringono aria. Storie che si incontrano, mani che si stringono, auto che lampeggiano moleste, ritmi indomiti e luci spente, persone avvinghiate a trovarsi, il corpo e la mente. È notte, il mormorio muto che mi avvolge. Celle. Che mi avvolge. Chi c'è nelle celle? Quando esco dall'isolamento non ho voce. Mesi senza parlare sono afona. I vestiti mi stanno larghi, Non ho uno specchio, non so che aspetto ho, ma sono euforica per l'eccitazione di uscire da quel buco. Mi trasferiscono al nord. Passo le ore del lungo viaggio cercando di sciogliere l'uno dall'altro i fili che tengono legati gli incastri del caleidoscopio in cui sta girando la mia vita. Ripasso, come un rosario. Letterina col timbro censura. Cara zia, siccome ti si stanno richiudendo i buchi perché non hai niente da metterci, ti ho lasciato un paio di orecchini. Fai la domandina per averli. Ripasso. Mia madre. Sei pentita? Mia madre. Non l'avrei più rivista. Ripasso. Come un rosario. La sua voce che mi chiama nelle sere d'estate, lei seduta con le altre donne a dire dei soldi che non bastano mai, io a inventarmi un altro mondo nei tanti rifugi di quel cortile dell'infanzia. Ripasso. Da piccola, come lei, mi addormentavo con l'odore di stalla e il calore di Nerina e Bianchina, bacche vere di un mondo vero. Ripasso. Quanto è durata l'ultima guerra? La paura, la fame? Quando passa un simile vissuto? A volte mai del tutto. E a volte capita che a qualcuno cui è stato raccontato possa restare a girare nella testa come elenco dei risarcimenti mancati, dell'indifferenza dei potenti. Ripasso. Come un rosario. Anni di lontananza, strappi violenti e mi ritrovo con una manciata di perle tra le mani strette nei ferri su un blindato dei carabinieri che mi porta nello stammaim all'italiana. Mi sento indistruttibile. Non sono sola. È solo un'intuizione che mi scalda l'anima. Poi capirò che di carcere si può morire se non si hanno mani e cuori a sostenere dall'esterno di quelle mura. Chi c'è nelle celle? Riconosco la voce della compagna che mi chiama dai piani superiori, mi dà le indicazioni per sostenere l'impatto con il cerimoniale d'accoglienza. Adesso sì che sento le lacrime arrivare. Seguo le indicazioni dalla finestra e consegno ogni indumento. In cambio ricevo un completino davvero originale con tanto di scarpe di cartone e mutanda approssimata. Mi infagotto e intraprendo il viaggio nella logica perversa di quel posto con le immettibili scarpe in mano. Procedo attraverso un labirinto di cancelli automatici che si aprono solo dopo aver chiuso quello precedente. Non faccio che sbarrarmi da sola la via verso l'uscita. A ogni apertura scatta un ossessivo allarme sonoro. All'incrocio dei corridoi mi ritrovo in mezzo a quattro accessi, sbaglio l'alternativa dell'enigma, il dispositivo lancia la sua segnalazione e da un interfono una voce inespressiva segnala la mia posizione e mi indica la mossa successiva. Per tutto il tempo che ho trascorso in quel carcere ho continuato a fare gli stessi errori. Finalmente ci sono. Il corridoio ha celle su entrambi i lati e dal cancello di ognuna sbucano saluti di mani e facce sorridenti. Anche se sembro un giullare, vengo accolta come una signora in una gara di benvenuto comprensiva di indumenti e vere mutande. Sono a casa. La seconda per i rivoluzionari, si diceva allora. Cara Barbara, eravamo nelle stesse strade, negli stessi urti contro i poteri costituiti, avevamo collere e compassioni uguali. Le forme furono diverse. Le vite nostre e di molti si suddivisero minuziosamente in destini simili a frantumi. Quell'interezza che siamo stati si infranse da dentro, non per i colpi ricevuti da fuori, anzi, quelli ci avevano indurito, compattando la materia prima delle nostre ragioni. A te è toccata la malora penale, fino all'ultima sillaba di decenni insaccati dentro recinti di sbarre. Tu hai pagato tutto il conto e il compito di stare tra i centimetri per la durata di 5 Olimpiadi in questo paese di insolventi, di chi si può permettere l'acquisto dell'impunità. Tu e alcuni dei tuoi avete saldato con il vostro corpo il debito penale di una generazione. Da qualche parte ho scritto: qualcuno in una cella, in un esilio, sconta il 900 anche per me. Mi riferivo a te e ai tuoi compagni. Sfoglio le tue storie, riconosco la tua voce sottile che non ha permesso a nessuna reclusione di toglierle il diritto di parola. Harry. Siamo stati naviganti con l'acqua alla gola, e in tutto questo ballandare quello che ci consola è che siamo stati lontani. siamo stati anche bene, e siamo stati vicini, e siamo ancora insieme. Siamo stati contadini noi due, senza conoscere la terra, e piccoli soldati senza amare la guerra. Ci hanno mandati lontano, senza spiegarci bene, e siamo stati male, e siamo ancora insieme. Grandi corridori di corse in salita, che alzavano la testa dal manubrio per vedere quando fosse finita. Allenati alla corsa, sì, allenati alla gara, preparati a cadere a tutto quello che si impara. Noi innamorati della sera, noi innamorati della luna, conoscitori della notte senza averne paura. Innamorati di quel fiore che non vuol mai dire ecco, è tutto finito. Bisogna partire, ora è il momento di mettersi a dormire, lasciando scivolare il libro che ci ha aiutati a capire che basta un filo di vento per venirci a guidare, perché siamo naviganti, senza navigare. Come hai fatto a sopportare? Adesso in tre, in una cella più domestica, pentolame con i manici, scaffali di cartoni del latte attaccati al muro con vera colla, una foto, la cordicella dei panni in bagno, tasche di stoffa appese, una casa, con la tappezzeria di foglie a quattro per coprire lo sporco delle pareti. Come hai fatto? Lei l'avevano arrestata nell'anno argentino. Tenuta per giorni e notti nuda, bendata e legata a un tavolo, come hai fatto a sopportare? Ho imparato a sdoppiarmi, come se quel corpo in balia di ogni vergogna non fosse il mio. Io non ero là con loro. Come aveva fatto, me lo sarei ricordata una mattina, nei primi tempi di uscita giornaliera dal carcere. Lo facevo ogni giorno quel percorso, con la musica alta nelle orecchie, straniata e alla ricerca di un pieno di bellezza per affrontare un'altra giornata difficile. Non mi accorsi di lui finché non mi fu addosso, mi sentì senza scampo, come paralizzata negli arti e nel cervello. Poi mi ricordai di lei e seppi cosa fare. Qualsiasi cosa fosse successo, io non ero là. Lui continuava a parlare, io non lo sentivo più. A un tratto si allontanò, disturbato da un gruppo di turisti. Mi segnò lo spirito. Il mondo, fuori, mi respingeva. Vai avanti, fa come non sia successo nulla. Mi rassicurò. Lei, proprio lei che, in modo diverso ma uguale a tante altre, era stata segnata sul suo corpo di donna dall'oltraggio più sprezzante per mano di autorizzati custodi della democrazia. Aveva ragione, non era successo nulla, soprattutto a lei non era successo nulla, perché non solo nel codice penale, ma anche nel lessico corrente la parola tortura era stata cancellata, eppure c'era stata per mesi nell'anno della sconfitta, anche quando il fine divenne solo estorcere terrore. Che ora è? Mi viene in mente un'altra diversa. Fuori dal carcere l'avrei ritrovata cresciuta, che mai avrei riconosciuto la ragazzina spastica di tanti anni prima. E tu diglielo che sei solo spastica, mica sorda o ritardata, diglielo che hai un sacco di altre cose. Mi rivedo, ferma davanti al cancello della scuola per ragazzini speciali. Non so che vado a cercare lì dentro, ma sento che il luogo è di quelli giusti. Entro nel cancello aperto e incustodito. C'è silenzio. Non si sentono più neanche i rumori della strada. Inizio a sentire quelli del posto. Uno strascicare di voci strozzate, passi scompagnati. Entro. Un gruppo di ragazzini su 10 anni riempie il locale con le loro carrozzelle, gli arti contratti, le urla isolate, l'odore forte dei corpi. Sono ancora sulla porta, L'impulso è di scappare fuori da quel quadro sghembo, ma Lulu mi chiede: che ora è? Spalancando tutta la faccia a un sorriso, decido di entrare. Che ora è? Lulu mi ripete la domanda e ancora non so che è l'unica cosa che sa fare. Sono rimasta. Ho imparato a padroneggiare la repulsione per bocche e sfinteri senza controllo, per la deformità di corpi come già vecchi, per l'odore di pelle, bave, fiati impastati di farmaci, per l'approssimata igiene quotidiana di capelli, denti, nasi, sessi. Ho imparato a capire il loro linguaggio verbale per rispondere e a interpretare quello emotivo per accorrere, a usare i bastoncini colorati anche per contare, a infilare palline, a non strappare le protezioni invisibili delle ossessioni di Roberto, a far scendere dal muraglione a strapiombo Giorgio che in terza persona cantilena: è pericoloso per il bambino stare qua, vero? A leggere in coro le lettere sbilenche di Annarella, a costruire le pagine del nostro libro, a riattaccare al muro i disegni strappati, a giocare a mettiamoci seduti e mangiamo con la forchetta, a riconoscerci fratelli nei graffi dello stesso dolore, a lasciare senza rimpianto l'agio del nostro ghetto dorato, tenendo dietro a stento all'improvviso risveglio di Sandro lo squalo, tre fila di denti e un poco di intelletto che entra trionfante nella sua nuova scuola per alunni normali, mi sorride complice e mi dice con i suoi occhi chiari: stai tranquilla, non riusciranno a buttarci fuori di qui. C'era già tutto questo nello stupore di occhi grandi innamorati del mondo. L'ultimo giorno del processo la grande aula era vuota, le condanne tutte emesse. Erano passati più di 2 anni e l'ultima parola era rimasta quella di un tribunale. Avevamo tutti perso l'occasione per una parola in più. Come nella primavera del 78, gli esiti ci erano sfuggiti di mano. Come allora incapaci di impedire che non ci fosse più nulla da dire. È un lampo. Passa davanti inavvertito quel momento decisivo in cui la paura di perdersi inchioda nei giri a vuoto di piste già battute. Dopo, quando tutto è andato, si fa limpido il dubbio che un passo in più non avrebbe fatto precipitare nel vuoto, ma forse irrobustito giovani ali. Il senno del poi e l'inerzia del durante. Sarà per questo che la storia sembra ripetersi senza nulla insegnare, che solo le grandi tragedie abbiano la forza di concedere dignità alla narrazione delle vicende umane, mentre chi le vive rimane quasi sempre un commediante, mai all'altezza dei suoi racconti. L'insalata sta al fresco sotto l'acqua nel bidet della mia cella, chi va a prenderla? L'insalata chiusa in un contenitore, ma la precisazione non fu fatta. Era uno di quei pranzi di giorno di festa in cui avevamo ospiti. Agli operatori del volontariato era consentito, quello di turno a momenti si strozza per la faccenda dell'insalata a bagno nel bidet e nei suoi occhi passa tutto l'orrore per le tante volte che aveva condiviso le nostre pietanze. Difficile rassicurarlo sulla nostra affidabilità nell'usare i sanitari disponibili nei nostri monolocali, camera e bagno. In carcere si ha sempre fame. Fame da poco nello stomaco, da nostalgia di sapori o di chissà che. In carcere si parla di continuo di cosa si vorrebbe mangiare, di cosa si vorrebbe. In carcere la realizzazione dei desideri raggiungibili è sempre rimandata, il loro consumo è veloce, i cibi non si possono conservare, l'ora di colloquio vola. Aspettare. Ma che vuoi capire tu, che non ti è mai mancato un pezzo di pane? Ti ci vorrebbe un po' di guerra, poca, e ti scorderesti di tutte le stranezze che ti passano per la mente. La guerra, la fame, maestre di vita, evocate per un'educazione più sana, esorcizzate con la lotta quotidiana allo spreco più piccolo, con il mandato di non lasciare niente nel piatto. Mastica bene, bella di papà, e manda giù tutto, che diventi grande. E io, che per compiacerlo mi sarei buttata nel fuoco, prendevo il boccone, facevo un giro per la casa, lasciavo i mucchietti masticati negli angoli e tornavo da lui con la bocca vuota a chiederne ancora. Tutta suo padre, ti porterò a mangiare il pesce dove so io, sentirai che buono. Del cibo aveva sempre fatto una misura di valore, eppure digiunò quando sotto bombardamenti il pane diventò merce rara. Tuo padre era ridotto pelle e ossa, aveva il collo talmente affilato che non si capiva come si reggesse diritto. Lo guardavo nella morbidezza della sua abbondanza e non riuscivo a figurarmi quel suo collo così sottile, mio povero eroe degli anni d'infanzia. Un giorno non abbiamo più condiviso i sogni e io Non ho più sentito il suo fascino. Non aveva più alcun potere su di me e nessuna riparazione per la mia ostilità. È colpa mia, è successo perché t'ho lasciato andare via, come se avesse potuto fermarmi. Nonno Gino ha sofferto troppo, quando è morto per lui è stata una liberazione. Odio gli adolescenti e il loro cinismo. Ma che ne sai tu? Eri solo un bambino. Mi guarda e non aggiunge altro alla sua sentenza. Non è così, non può essere stato così. Se non mi credi, chiedi a chi ti pare. E io chiedo. Beh, è stata dura, no? Non immagini? Un giorno è passato davanti all'edicola in piazza, c'era una locandina con la tua foto e sotto la scritta «La terrorista dagli occhi di ghiaccio», è andato fuori di testa. Sì, se proprio vuoi saperlo, quando ti hanno arrestata abbiamo tirato tutti un sospiro di sollievo. E io, che pensavo che non poteva non sentire il mio amore anche da così lontano e le mie ragioni tanto superiori da impedire uno sguardo ravvicinato su quelle della nostra esistenza. Chi sono loro? La prima volta li vidi durante l'ora d'aria. Alzai gli occhi e rimasi incantata ad ammirare la danza regale di nuvole di uccelli in volo. Emergenza storni. Con lo spopolamento delle campagne a sera emigrano in città in cerca di cibo e calore. Fuori dal carcere ho rivisto i lasciti del loro passaggio. Piazze e viali alberati ridotti a domicilio abusivo e tutto attorno i segni del transito della affollata comunità di transfughi. Beh, dovremmo abituarci a loro, ma uomini col grido registrato, moderni pifferai senza più formule magiche, continuavano a spostarli ai quattro angoli della città e loro, a sciami, tornavano a ogni calar del sole come fosse casa loro, come fossimo noi gli intrusi. Loro non potevano che migrare e noi non sapevamo che dar loro la caccia. Perché non restano a casa loro, eh? Qui non ce n'è per tutti. Il mare nostro ha continuato a riempirsi di affogati, sputati in acqua da legni fradici, senza in tasca neanche la ricevuta di un biglietto pagato a prezzo di usura. Ma perché non restano a casa loro? Ma sì, continuassero a morire e a fornire braccia a prezzo scontato per le nostre fabbriche globali nei loro paesi che abbiamo destinato al sottosviluppo o dentro scantinati per schiavi a casa nostra e non provassero a superarci nella scala del mercato mondiale perché non avrebbero vita facile, come chiunque tentasse di rubare in casa di ladri. Eh sì, vengono qui, fanno come fossero i padroni. In mezzo a Viale Togliatti c'è un ampio spartitraffico e loro stanno là, aspettano i caporali. Sono invisibili, come quando vanno a morire su quelle tinozze bucate in pieno mare. Più giù invece il marciapiede è frequentato da migranti donne che vendono anche loro forza lavoro a buon mercato, anche se di altro genere. Anche loro vengono e ci rubano il lavoro, anche loro, quello più duro da strada, a gruppi di nazionalità e offerte anatomiche diverse. Chissà cosa avrebbero voluto fare da grandi. Quando scelsi la via delle armi pensavo fosse possibile quel mondo nuovo che già avevo messo buone radici e non immaginavo quanto la realtà potesse essere peggiore. Il potere ha perfezionato la sua pervasività in ogni campo del vivere e come sempre l'antinomia su cui poggia genera anche la sua negazione. I compagni adesso si chiamano fratelli. I loro corpi hanno preso il posto delle armi e anche per loro va in onda la vita in diretta. Genova per noi. Sono sicuro d'essere solo. Sono sicuro che il mio volo non si fermerà più. Seguendo l'occhio di mille inquadrature, ho visto nuove generazioni di guerrieri metropolitani. Partecipo alla manifestazione ma guardando le immagini in diretta dalla televisione. Sono tantissimi. Sono la spina nel fianco di un occidente ricco e di mediocre domani. Poi tutto cambia. Mi si spegne il sorriso e comincio ad agitarmi come per un già visto fuori tempo. Tutto cambia. Il colpo mi rimbomba in testa. Gruppi veloci di ragazzi vestiti di nero sfasciano e poi spariscono. La polizia arriva dopo, reagisce e attacca pezzi dell'enorme serpentone. Non vengono risparmiati neanche i pacifisti, chiusi da un lato dalla massicciata della ferrovia, quelli con le imbottiture avanzano. Sento che i miei nervi gridano che non si fermeranno. Si distendono. intendono portare la protesta dentro la zona rossa. Ai miei tempi si sarebbe fatta un'incursione, questi invece fanno il contrario, procedono senza fretta e dichiarano dove intendono andare. Disarmati, sembrano trarre forza dalle loro ragioni e se le giocano su un piano dichiaratamente simbolico. Ancora non si sono accorti che quegli uomini in divisa, vestiti come i cattivi dei fumetti giapponesi, si stanno preparando ad attaccarli. Caricano il corteo, chiudendolo da ogni lato. Una trappola senza via di uscita, non per respingere, ma per fare male. E allora, disteso con la faccia a terra, gli sguardi spenti e preoccupati, mi circondano. Con i blindati lanciati a velocità tra le persone in fuga, urla, colpi di manganelli e calci sul corpo di un ragazzo rannicchiato a terra. Una donna con le mani alzate si aggira terrorizzata e quelli continuano a colpire, furiosi, un ragazzo a dorso nudo sotto il sole di luglio. Sono stato prigioniero di uno stato di eccitazione invitante. Avrà l'età che avevo quando vidi salire dalle scale dell'università occupata una calca di scudi, caschi e manganelli. A spinte di botte e insulti arrivai nel sotterraneo. Lì mi accolsero le donne che lavoravano alla lavanderia. Anche loro atterrite dicevano che erano tornati tedeschi del tempo della guerra. Mi medicarono e mi fecero indossare un camice. Uscì insieme a loro e mi risparmiai il resto. Fuori c'era sangue ovunque e solo polizia che rastrellava. Cariche, scontri, ritirata dentro l'occupazione e sgombero pesante. Sono stato prigioniero di uno stato di eccitazione invitante, indomita libertà. Ma non fu la Diaz, non fu Bolzaneto, non con quelle ciocche di capelli e di sangue rappreso sulle scanalature dei termosifoni, non con quel salvacondotto di impunità, non con quei gas asfissianti, quei manganelli speronati che lasciano solchi nella carne, tanto armamentario contro una massa variopinta unita dal volere possibile, un altro mondo, non la rivoluzione, non il potere, non il comunismo, delegazione di una maggioranza del paese, buttata fuori, senza mezzi termini, da ogni spazio di decisione, ammutolita. Ammonito, il corpo morto di un ventenne che scriveva poesie in latino e che verrà ricordato col solo appellativo di ragazzo. La telecamera indugia su un passamontagna. Zuppo di sangue. Potrebbe essere mio figlio, gli anni mi hanno ammorbidita, sono più fragile, mi spezzo prima. Vorrei solo non aver visto. A ricordare ricordo. Faccia, ragioni, occasioni. Ricordo quel giorno, il telegiornale di pranzo e le telecamere che si soffermano e riconoscono la mia casa. Ecco il bagno. dentro la vasca una scopa che diventerà famosa, ma che per il momento è solo una scopa lavata che era stata messa a sgocciolare a testa in su. Siamo stati i sintomi febbrili di un paese malato di finta condivisione di ragioni superiori, dove il perenne conflitto di poteri non raggiunge la dignità di forza di trasformazione, che preferisce cercare nell'occulto le cause della propria anomalia. Non ci voleva molto per fare tutto da soli. Nella equivalente arretratezza di ragionamenti e prospettive buone per altre latitudini e stagioni, ci siamo immaginati un luogo del potere che non c'era, una classe dirigente capace di lungimiranza e governo dei conflitti, un paese spaccato in due. Ma abbiamo fatto tutto da soli. Dov'è finito il tempo? Più di 21 anni. Un giorno ho lasciato la cella dove ho passato anni di notti recluse. Mi sono dovuta ricordare di non lasciare scarpe perché in carcere si dice che porti male, come se i piedi spingessero per tornare indietro a calzarle di nuovo. Soprattutto non dovevo dimenticare il pettine rosa. Doveva venire via con me se volevo chiudermi davvero quel portone alle spalle. Il pettine rosa è l'ultima cosa rimasta del primo pacco da casa. Un messaggio inaspettato, la presenza di chi fuori da quelle mura vegliava su di me. Ancora uno sguardo in giro nella sezione deserta. Un pezzo di vita mia sta anche qui dentro. Solo adesso che questo luogo non mi si stringe addosso, lo guardo a viso aperto, per non doverne temere i soprassalti di immagine e poterne sciogliere in compassione la durezza dei ricordi. Mi avvio all'uscita. Che provo? Nulla. Come lo vedessi per la prima volta, eppure mi appartiene. Qual è la prima cosa che vuoi fare quando esci? Andare al mare, da sola. Ma non è ancora tempo. Conto quello che manca, tanto per ricacciare il pensiero maligno che tutto è stato consumato, che la vita è una e prosegue, non ricomincia, mentre il respiro si fa corto sotto il carico dei suoi tanti lasciti. Mi incammino. Dov'è la città? Eccola. Discariche del degrado sociale senza più storia collettiva. Ma dove stanno tutti? Eccoli. I brutti e cattivi escono dall'ombra e conquistano la prima pagina. Esistono. Sono giovani. Sono tanti. Non si nascondono. Sono figli nostri della nostra cultura delle passioni a risparmio, della paura e del disincanto. Escono dai loro bivacchi sotto casa per sciamare nei centri commerciali. Sono razzisti, misogini, instancabili consumatori di tutto ciò che si può comprare, il braccio armato delle spedizioni punitive contro quelli che hanno preso il loro posto nelle file degli ultimi. Stazionano giorno e notte in 3 metri di marciapiede, estate e inverno, ora su un piede, ora sull'altro. Ridono forte, come per sfida al mondo di fuori. Che fanno ora che sono già grandi? Scendono da casa e riprendono il loro posto, ora su un piede, ora sull'altro. Perché io, perché non tu? È bella, eh? Se vai laggiù, devi andarci a Matera. Ai vecchi abitanti hanno costruito case vere e i sassi sono diventati un museo a cielo aperto. A volte capitano. Capitano occasioni in cui si riconosce qualcosa di essenziale dell'impasto di cui si è fatti, come partire per un viaggio e trovarsi a percorrere un territorio dell'anima. Adesso so quali sono i suoi colori, le sue dolcezze e le sue asperità, come il carcere, come l'amore, come un odore. Quei luoghi non si fanno descrivere se non per similitudine, come racconto del farsi della vita che passo passo scopre l'ordito di una trama fino a ricomporre il disegno di origine. Guardavo. Non somigliavano a niente quei colori, quelle rughe delle coste dei monti, quella solitudine, chilometri di allegoria del cammino umano, lo stomaco stretto, il residuo di fiato non sufficiente per pronunciare parole, quasi un dolore per quel messaggio vitale allo stato puro nell'impossibilità di guardare altrove con la gratitudine di ogni cosa rivelata. Tutto rimasto uguale dall'inizio dei giorni. L'umano là non ha trasformato e piegato ai suoi tempi, solo il lento lavorio della pioggia, del vento, del sole. nel silenzio di parole tutto là, a voce. Parlano le crepe profonde delle gravide che ti afferrano il cuore e non lasciano la presa finché non tocchi il fondo. E parlano i suoni del vento sulla pianura coltivata che nessuno abita. È come se la gola avesse teso il palmo della mano per raccogliere i primi abitanti del luogo. Sta lì, intatta, nella sua inaccessibilità, a due passi dalle case che si sono adattate al suo profilo. Nell'aria si sente il suo respiro di pancia, ampio, profondo, a misura di un tempo arreso allo scorrere di una vita come trattenuta. Piove, ma proseguo, perché in quei dislivelli del terreno pezzi di paese mi sono apparsi come appesi a mezz'aria. Tutto, la strada, le case, l'appoggio della terra finiscono nel vuoto, un paese sospeso. Ma cos'è? Non è un'immagine reale, è uno spasimo delle viscere, uno scherzo della mente. Cos'è? La città mi parla ed è anche di me che dice. Somiglia a mia madre, alla fatica che ho respirato dentro di lei, agli scatti di amor proprio ferito, al travaglio con cui mi ha dato la vita. Somiglia a quello che dal primo sguardo posato per me sarebbe stato il modo di guardare il mondo. Nei momenti di maggior sfinitezza un eco mi aveva sempre portato nell'aria questo stesso sapore di antica pazienza, di ingiustizia senza rimedio, di sorte matrigna, quella che colpisce senza ragione né malevolenza, solo perché in un mondo dispari a qualcuno deve toccare. Perché? Proprio a loro. Riconosco in quei pertugi presenze di un'umanità offesa tanto da farsi lichene, che trattiene il respiro sulla nuda roccia, il muoversi guardingo di figure smagrite, come raccolte a difesa, vestite di scuro, gli occhi smarriti, come quando la sopravvivenza, anche a fiato ridotto, è un niente e un buco nella roccia si fa tana all'apertura di caccia. Tutto e tutti insieme nel cavernoso ventre di pietra. Bisogna andare al di là della gravina per vedere tutto. La città antica è là, in tutta la sua estensione, appoggiata al bordo della voragine. Il vento adesso è più forte, o forse è altro il motivo del freddo che sento. Inimmaginabile una simile crudele bellezza, come solo l'umano patire può suggerire agli occhi del cuore. Dallassù sono a vista anche i tuguri della parte più bassa della città, fino all'ultimo anfratto prima del declinare del monte del precipizio, la parte più povera, rimasta com'era. Non è miseria, è il nulla, una colpa, un castigo. È l'altro da tutto, da distogliere lo sguardo per non lasciarci la ragione. È una lama di rimorso oltre tutto il tempo a venire. È uno di quei luoghi al mondo in cui diventare grandi è l'unica realizzazione concessa ai sopravvissuti. Perché noi... Sono sola. Che ci faccio qui? E qui cos'è? Sono sola seduta sulla panchina di Piazza Vittorio. Ho ancora domande e sono sola, di nuovo. Chi ha chiuso, strappato, ricucito malamente ferite e dettato tempi e regole? Dove andarmi a cercare? La voce sottile è scivolata via, dentro le viscere della città, verso la sua mezzanotte. La sento ancora. Vibra, risuona tra gli alberi, tra il chiacchiericcio degli arabi, dei cinesi, dei bambini. Avevo un sogno una volta, la cerco. Che odore ha la sera? La cerco. Dov'è la vita? La cerco. Dove mi devo cercare? La cerco. Guardando su, nello spazio tra i tetti, in mezzo al nero del cielo, la cerco e la trovo. Eccola, è là, bella, sfrontata, è là, è sempre stata là. Se muore è per rinascere, sempre da capo, e nonostante questa vita ancora sospesa, sa con certezza che non è riuscita a morire. Nonostante tutto, la vita entra ancora, compagna luna. Chiedi troppo e lo sai, quando vuoi quello che non sei, ricordati di me, forse non ci credi. Sguardi, guarda solo qui per me, non ti ricordi, eri come

tutti noi, e quindi ho sia dal punto di vista, con molte virgolette, sociologico, antropologico, anche se un po' nel mio punto di vista è quello, non dal punto di vista accademico, ma proprio di approccio alla materia, e quindi sto ripercorrendo quello che è successo, quello che abbiamo fatto, e in questo percorso chiaramente mi sono imbattuto nelle fanzine. Il secondo punto che stavo dicendo è che io mi chiedo ogni tanto, abituati come siamo con la tecnologia, con la comunicazione istantanea che c'è adesso, come facevamo a comunicare nell'era in cui avevamo il francobollo e il gettone telefonico, no? Ed era meraviglioso perché riuscivamo a fare una rete capillare quanto quella che c'è adesso, ma sicuramente più efficace, perché credo che poi la materialità di quella rete rendeva sicuramente più pregnanti, più veri, più concreti poi i rapporti tra le persone, e stimolava ancora di più la creatività, e soprattutto, e con questo posso definire meglio i vantaggi della rete dei fanzine, come diceva John Sinclair, la stampa alternativa e i media alternativi univano ed uniscono le persone, mentre il web 2.0, i social network, per motivi proprio strategici, aziendali, di marketing di queste multinazionali, tendono a dividere, tendono a esaltare l'individualismo, a generare conflitti, perché più conflitti ci sono, no? Ovviamente più ci sono condivisioni, più ci sta interazione, quindi più soldi per queste multinazionali. Ti parli di Fanzinist, che è un po' il lavoro di raccolta che stai portando avanti. Sì, o per comodità, per colpo d'occhio, ho realizzato questa mappa grafica interattiva che colloca sulla mappa geografica, sullo stivale, insomma, le varie fanzine come se fossero, io l'ho paragonati a dei nodi di quelli che sono i nodi IP di internet di oggi, e però per poi rendere più facile la navigazione ho affiancato anche un'altra pagina che è un elenco alfabetico, perché sono talmente poi tante, soprattutto al nord, soprattutto in certe zone, chiaramente sono molto concentrate e che poi diventa difficile anche individuarle, per cui c'è una mappa testuale in ordine alfabetico per rintracciare queste fanzine. Sono arrivato a mappare attualmente 670 fanzine e renderne disponibili di queste un 440 in PDF integrali, liberamente consultabili, liberamente scaricabili, nell'ottica che io insomma ritengo sia quella nella quale furono create queste pubblicazioni, che erano fatte non per guadagnare, che erano fatte per quello che dicevo prima, per creare la rete, per comunicare, per diffondere e per unire le persone, sia nelle varie scene che poi le scene tra di loro. Per saperne di più, ci dai dei riferimenti web? Per semplificare, un www.capitmundi.it, poi in alto nel blog c'è stato il post sulle fanzine, e poi c'è tanto altro. Perché come dicevo, non è l'unico progetto, quindi c'è un progetto di ricostruzione agricola storica. E poi anticipo un teaser, e tutto questo mi ha portato spontaneamente a progettare la pubblicazione di una compilation in vinile che uscirà il prossimo anno, perché nel corso di questa ricerca una persona che si è presentata come Karen Elliott mi ha regalato un borsone pieno zeppo di cassette, fanzine, ma gruppi sconosciuti, mai sentiti, come Misantropussi, come Jim Seccelagocci, come Punkiderma, scritto Punkiderma. Tutti questi gruppi adesso sto cercando di capire da dove vengono. Alla mia esplicita domanda lei mi ha risposto da un'altra dimensione, ha fatto un sorriso ed è sparito. Quindi adesso sto cercando di studiare un po' il materiale, e comunque ho programmato questa uscita per il prossimo anno, e il titolo provvisorio sarà No Capitulation, perché non bisogna mai arrendersi, la penso così. Fanzinist all'interno del progetto Capit Mundi, un saluto e un ringraziamento al curatore Paolo Palmacci. Alla prossima! Grazie a te, ciao a tutti, ciao Federico, ciao. Questa è tutta scena teatro su Radio Onda Rossa. Il martedì alle ore 14. Trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali. I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.